prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Con questa settimana iniziamo a riflettere ancora meglio sulla questione migranti, profughi, richiedenti asilo. La situazione, come sapete, è molto sentita e anche tema di accesi dibattiti un po' in tutto il territorio regionale, locale o localissimo, ma anche nazionale ed europeo. Ha fatto il punto della situazione la diocesi di Padova nei giorni scorsi, facendo un appello a tutte le altre istituzioni pubbliche, fare di più e meglio, ma farlo insieme. Sentiamo come ha esposto il tema il vicario episcopale per i rapporti con le istituzioni, Don Marco Cagol. La diocesi, la chiesa di Padova vive le situazioni sia con un osservatorio generale qui dal centro, ma anche lì dove le situazioni accadono. Quindi vive anche a Cona, che è diocesi di Padova, vive a Bagnoli, a Dagna, che sono i comuni interessati dall'hub, diciamo, di San Siro, vive ad Abano, dove ci sono delle parrocchie, quindi c'è una relazione molto stretta anche con tutto quello che succede nei territori. E quindi vede, ecco, cosa succede e si maturano insieme alcuni pensieri. E il pensiero più semplice che viene da maturare è questo: laddove sono avvenute e si sono realizzate delle micro accoglienze, diciamo soprattutto quando queste micro accoglienze sono state frutto di una coesione del territorio, non c'è stata tensione, non c'è stata fatica. Magari c'è stata qualche resistenza iniziale, qualche dialogo, qualche dibattito, però sicuramente, ecco, l'impatto, cioè la capacità del territorio, la resilienza del territorio, potremmo così dire, di accogliere e di continuare la propria vita normalmente è sotto gli occhi di tutti. Laddove invece ci sono state altre, io dico, obbligate scelte, perché evidentemente probabilmente non c'erano alternative, e si vede, insomma, ecco, si percepisce il disagio o la fatica, e tra l'altro si percepisce soprattutto il disagio e la fatica di coloro che sono accolti, perché evidentemente sono accolti in condizioni molto diverse rispetto ai piccoli gruppi, alle piccole accoglienze. Il messaggio più importante che noi vorremmo dire questa mattina è che anche, cioè proprio partendo anche da questo bilancio dopo un anno anche di impegno da parte della diocesi, è molto semplice, cioè nessuna realtà, nemmeno la chiesa, nemmeno una parrocchia, nemmeno può fare questo percorso di accoglienza da solo. Non lo può fare nessuna istituzione da sola. Abbiamo visto, no? I comuni, avendo paura che il comune vicino non facesse la stessa scelta, si è trovato intimorito, no? Magari a dare la disponibilità. E poi ci sono delle istituzioni che sono obbligate a fare, perché comunque questa cosa, queste persone sono qui, non è che si possano incenerire, e quindi l'istituzione che deve per forza gestire da sola fa quel che può e lo fa anche con grande travaglio e sofferenza. C'è un'intervista del prefetto sul Corriere che manifesta, insomma, tutto questo, la sua anche solitudine, ecco. Quindi proprio il messaggio forte è questo: neanche la Chiesa da sola è in grado di fare molto. Voi capite che per una parrocchia che magari avesse anche lo spunto di accogliere, ma si trova tutti contro, recede. Cioè non è semplice, ecco, per una parrocchia da sola con tutti, qualcuno ha anche forzato, per carità di Dio, però non è che possiamo chiedere atti di eroismo a una realtà che comunque ha una sua fragilità e debolezza, ecco, come è una parrocchia, no? che non è dotata di risorse economiche, non ha poteri tra virgolette, ecco. Quindi poi tra l'altro nel bilancio noi dobbiamo tenere conto anche che in realtà poi non è che sono tantissime le parrocchie che così pronta cassa hanno, instabili, immobili, perché la maggior parte degli immobili non sono idonei, non sono, quindi se noi facciamo una proporzione tra quanti hanno possibilità e quanti accolgono, forse è meno negativo il bilancio, ecco, è anche positivo tutto sommato. Sono processi anche molto lenti. Per non fare un'accoglienza, diciamo così, in modo privatistico, io ho una casa, trovo una cooperativa e faccio l'accordo, ma coinvolgendo il territorio ci vuole tempo. E purtroppo il tempo a volte è quello che manca, nel senso che a volte manca il tempo, perché quando arrivano in tanti, chi deve gestirli, chi deve accogliere e dargli un tetto non ha tempo. Quindi ci sono proprio anche delle velocità diverse, ecco. Probabilmente ci vorrebbe un po' meno tempo se appunto non ci si trovasse anche a volte da soli e in contrasto, non si osservasse un contrasto tra le istituzioni rispetto a questo tema. E allora poi qual è il risultato? Questa realtà, queste presenze vengono concentrate e quindi è come se i cittadini, tutti i cittadini del nostro territorio, come dire, scaricassero, tra virgolette, il problema, il tema, ecco, su alcuni, quelli che fatalità ci trovano a vivere là. Allora, pur in una posizione così umile, molto umile, noi, il Vescovo stesso, ecco, auspicherebbe e rinnoverebbe, ecco, l'appello ad un patto territoriale del nostro territorio, dove tutti concorrono e remano nella stessa direzione, perché questo lascia meno sole alcune istituzioni, lascia meno soli anche quelli che hanno un po' di buona volontà, come diverse nostre realtà parrocchiali e diverse nostre strutture religiose, eccetera, che si sono trovate insomma anche a dare questa disponibilità, e dove effettivamente poi si può anche, come dire, offrire un tipo di accoglienza più dignitosa. Diciamo, il desiderio di ridire queste cose qua è nato vedendo l'impatto, ecco, delle grandi accoglienze sui territori dove noi comunque ci siamo come chiesa, non è che non ci siamo, e vedere la reazione di Abano e la domanda delle parrocchie di Abano, e noi che cosa diciamo, cioè cosa facciamo noi rispetto all'ipotesi che e alla reazione della cittadinanza contro. Se si vuole dire un no alle accoglienze macro, bisogna dire anche un sì a delle micro accoglienze. Di fatto il tessuto padovano non è riuscito a esprimere un patto, diciamo così, o una soluzione coesa, ma ci mettiamo dentro anche noi, anche noi abbiamo le nostre debolezze e fatiche che sono date dalla solitudine. E su questa linea anche il prefetto Morcone del Ministero dell'Interno, in visita alla base di Bagnoli, dove ricordiamo sono un migliaio sui 2000 del territorio padovano le persone ospitate, il prefetto Morcone ha ribadito il concetto della microaccoglienza, quel criterio di più o meno una persona ogni 2000 abitanti. Certo, su questo poi rimangono molte resistenze, almeno da qualche parte politica. Sull'argomento torneremo anche nelle prossime settimane, con delle esperienze concrete, positive, non senza difficoltà certamente, ma che nel territorio della diocesi già si vivono. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.